Germán, che tal mi sei e tu ne t'amo? Fasto non l'uomo, di chi trasse vile il nascer suo, vantar congiunti illustri, ma torto d'ora t'erraggi, e che men puoi accordare al mio amor con me sto sfogo? Tu non ne ancora rosani, so che speri di sciolto il nodo, ma prima pensa quale tu sia, e vedrai che non senza dito gara puoi me godere.